punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Ancora un buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio 24. Dunque, come avete sentito fin dalle prime ore dell'alba, questo è un sabato di notizie che arrivano soprattutto naturalmente dalla sponda sud del Mediterraneo. Dalla Libia avete sentito, nel caso non l'aveste fatto, ve lo rifacciamo sentire tra qualche minuto, l'ultima corrispondenza, la più fresca del collega del Sole 24 Ore, Massimo Buongiorno. Roberto, che da Bengasi appunto racconta ciò che vede naturalmente dal suo specchio di cielo, mentre soprattutto racconta di esplosioni, racconta di aerei che sorvolano la città e di un aereo abbattuto. Ecco, torneremo naturalmente a parlarne, continueremo ad aggiornarvi su tutto questo. Voglio però ricordare subito, prima magari di trascurarlo, il fatto che in questa settimana che si conclude con questa sorta di appunto di rombo di aerei e di annuncio di cannoni, che sicuramente in qualche modo condizionerà anche tutto lo spazio informativo nelle prossime ore. Beh, dicevo, questa settimana in realtà sono stati molti i focolai che si sono sviluppati, che hanno incendiato letteralmente alcune parti del mondo, e è indispensabile, ritengo, anche ricordarli per poi porci delle questioni. Per esempio, Abidjan, Africa occidentale, Costa d'Avorio, grande mercato del cacao, una città ormai devastata da parecchie settimane dagli scontri tra i fedeli del presidente Gbagbo, il suo rivale Ouattara. Ma insomma, una situazione in cui i civili sono le vittime conclamate di atti violenti, eppure così lontano dallo sfondo, dalle prime pagine dell'informazione e dell'attenzione politica internazionale. Ancora Manama, Bahrain, era un luogo, come dire, molto frequentato in questa stagione, Gran Premio di Formula 1 e così via. Beh, questo è un luogo dove pochi giorni fa una colonna praticamente infinita, pure raccontata dai media internazionali, di veicoli appunto dell'esercito saudita, arriva nelle province emire del Golfo per sedare delle proteste di cui via via tendiamo a sapere sempre meno. E ancora lo Yemen, dove c'è lo stato di crisi, dove la situazione è di violenza, è esplosa in più di un'occasione. Ecco, tutto questo per ricordarci e ricordarvi, ma soprattutto veramente per ricordarlo anche a noi giornalisti, che mentre nelle prossime ore saremo tutti concentrati nel cercare di raccontare spicchi di realtà difficilmente a volte comprensibile sulla Libia, si muove anche tutto un altro mondo. Allora, come mai tutta questa attenzione che si concentra solo sulla Libia? Beh, da parte nostra in fondo la risposta è semplice e ragionevole: siamo vicini, gli interessi economici ma anche la vicinanza fisica e dalla parte del mondo nel suo complesso. Forse la risposta può essere più complessa e anche più ambigua, forse che in altri paesi come in questo momento nel Golfo l'opposizione rischia in qualche modo di mettere in discussione la certezza delle forniture, quella certezza che in qualche modo è proprio lo stesso che Gheddafi a mettere in dubbio con la sua politica. Insomma, interessi molto complessi, ma questo naturalmente fa parte dello scenario internazionale complessivo di cui cerchiamo comunque di darvi conto. Il governo libico ha detto che le sue forze armate sono sotto attacco a ovest di Bengasi, hanno risposto per autodifesa. Questo dice appunto Tripoli, dice Gheddafi e lo riferisce Al Jazeera. Insomma, una settimana che ha visto di fatto l'inversione. Nelle settimane precedenti abbiamo visto l'affermarsi dell'opposizione, della rivoluzione, degli anti-gheddafiani che assumevano progressivamente il potere, poi lo stallo e decisamente l'inversione di tendenza, l'avanzata delle forze di Gheddafi e la direzione verso Bengasi, che immediatamente è diventato un po' il centro non solo fisico ma anche simbolico di questa protesta. Allora ripartiamo da questa mattina, in realtà erano le 8. Roberto Buongiorno, dunque inviato del Sole 24 Ore, racconta ciò che vive in diretta appunto a Bengasi. Sì, buongiorno a tutti. La situazione è molto tesa. Bengasi è sotto i bombardamenti. Pochi minuti fa hanno colpito una zona orientale della città, la periferia, qualche chilometro fuori. Possiamo vedere i pennacchi del fumo che si sono levati. Sentiamo i colpi più vicini. Il bombardamento è iniziato la scorsa notte. Quindi in aperta sfida alla decisione dell'ONU e contraddicendo le parole del ministro degli esteri che aveva parlato di un libico che aveva parlato di un cessate il fuoco da parte del regime di Tripoli, le forze di Gheddafi stanno andando avanti. Poco fa abbiamo visto sopra le nostre teste due jet moderni, ma nessuno riesce a capire se siano jet della comunità internazionale o delle truppe di Gheddafi o i fantomatici caccia in mano ai ribelli. Ma tu sai che sono volati sopra le nostre teste, mentre in questo momento continuano a levarsi i pennacchi, se ne sono 4 o 5. Corre voce che siano stati colpiti anche un quartiere molto periferico, fuori dalla città, e siano state colpite delle case, ma sono notizie ancora da confermare. L'unica realtà è che da qua odiamo i boati e vediamo i pennacchi di fumo, e i colpi sono molto più vicini. E per ora da Bengasi è tutto. Punto e a capo. La Libia dunque, dall'altra parte, lontano, in Oriente, il Giappone. La crisi, il terremoto naturalmente di venerdì scorso dell'11 marzo, erano pochi minuti prima delle 3 del pomeriggio, il terremoto, lo tsunami, le notizie drammatiche che arrivano appunto dalle province, in particolare dalla zona di Sendai, e poi la crisi nucleare di fatto per i reattori di Sendai, che entrano appunto in una difficoltà estrema, le esplosioni. Ecco, questa mattina dunque siamo arrivati a una fase anche forse importante di questo sviluppo, in cui da un lato c'è la diffusa enorme preoccupazione per quanto sta accadendo e i giapponesi che hanno dovuto cominciare ad ammettere una serie di debolezze della struttura, eccetera eccetera. Dall'altra, dicevo, la buona notizia è quella di un ritorno imminente dell'energia elettrica nella struttura, nell'impianto industriale della centrale, che è l'annuncio di fatto della possibilità di intervenire e di raffreddare con dei getti d'acqua 24 ore su 24 i reattori della centrale di Fukushima. E questo di fatto l'obiettivo di questo piano messo a punto dalle autorità giapponesi assieme all'esercito, ai vigili del fuoco, per cercare di diminuire la temperatura del combustibile radioattivo depositato, che di fatto liberato, scoperto dalla sua struttura di raffreddamento, ha preso appunto pericolo a crescere. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all'intervento dei mezzi più disparati che hanno rovesciato acqua di mare per quanto possibile appunto sui reattori, gli elicotteri, i camion dei pompieri, l'intervento pericolosissimo dei tecnici e dei volontari anche appunto dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per cercare di controllare la situazione. Naturalmente tutto questo ha contribuito anche a rianimare, a riaccendere un dibattito all'interno di Radio 24, che ha raccolto quelle che sono poi i sentimenti degli italiani sul nucleare. Allora, grandi dibattiti fin dall'inizio della settimana. Io vorrei cominciare a farvi sentire un intervento, le preoccupazioni anche di specialisti che pur senza appunto nascondere, negare un sostegno di principio al meccanismo ricorso al nucleare, si sono naturalmente trovati confrontati con queste nuove complessità. Allora, dall'appuntamento delle 9 del mattino sentiamo il professor Luigi De Paolo, che insegna economia e gestione all'Università Bocconi, che partecipa dunque martedì scorso a un dibattito proprio sul futuro del nucleare. Capisco che la situazione peggiora di giorno in giorno, per non dire di ora in ora. Anche io speravo e pensavo che dopo le prime notizie si riuscisse a raffreddare i tre reattori che erano in funzione al momento del terremoto e poi dello tsunami, però uno dopo l'altro vedo che abbiamo avuto tre esplosioni e anche il quarto, che era spento, ha accettato il fuoco e l'incendio, e quindi problema per la piscina di stoccaggio del combustibile combustibile esaurito, diciamo altamente preoccupante anche questo, perché un reattore spento non riesco a capire come mai scoppi l'incendio e appunto ci sia dispersione di radioattività anche da lì. Poi la notizia di stamattina dei 400 millisievert mi allerta in una maniera terribile: 400 millisievert ora, il che vuol dire che come fa il personale adesso a intervenire in quella zona? Perché 400 millisievert ora, uno in un'ora prende questi 400 millisievert, quanto ci può rimanere una persona? Il personale in questi casi si sacrifica, l'avete forse sentito stamattina nella rassegna stampa, appunto le storie anche di questi tecnici, di questi operai giapponesi che intervengono pur sapendo di mettere gravemente a rischio la propria salute, la propria vita. Sullo stesso tema Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, firma della stampa, sentiamolo. Vorrei dire che l'incidente è molto più grave di quello che noi pensavamo all'inizio, questo lo possiamo senz'altro dire, ed è di una gravità tale che l'autorità francese per la sicurezza sull'energia atomica ci dice che si tratta di un livello di incidente 5 o 6, mentre fino a ieri si era dato per sicuro un livello 4, la differenza lì lo sapete, è inutile che la starò a ricordare, ma insomma va in ordine di gravità crescente, e 7 è quello di Chernobyl, 4 è quello che si era dato all'inizio, 5 o 6 potrebbe essere prima dell'Island, diciamo. Però quello che è vero è che io ho davanti un commento riportato da Daily Yomiuri, che è uno di questi siti che riporta le affermazioni di TEPCO, cioè dell'agenzia che fa l'energia elettrica in Giappone attraverso il nucleare, ci dice che, leggo testuale, fuel roads, cioè le barre di combustibili, fully exposed, cioè completamente esposte. Quando c'hai un'esposizione di quel tipo, il processo di fusione, quello più temuto di tutti, la fusione del nocciolo, è una cosa che va paventata, perché effettivamente vuol dire che è fuori controllo. Allora, di fronte a questo, questa è la mia considerazione, possibile che a nessuno gli venga in mente in Italia, di coloro che sostengono un programma nucleare futuro, non dico di fermarlo, questo, ma di fermarsi a riflettere, quello magari sì, facendo, non so, si possono organizzare conferenze di studio, approfondimento, insomma quello che volete. Se la Svizzera decide di non fare più centrali, la Germania ne chiude due e decide di non prolungare la vita di quelle più vecchie, l'Austria non ce l'ha, il Portogallo non ce l'ha, la Grecia non ce l'ha, questo va bene, l'avevamo già visto, e altri si mettono a dire che, insomma, bisogna pensarci un attimo. Se gli stessi francesi ci dicono che addirittura le PR, cioè un sistema di sicurezza, cioè quelle che vorremmo costruire noi, hanno sistemi di sicurezza che non sono ottimamente congegnati, certamente nessuno potrà pretendere che il rischio sia zero, ma gli impianti industriali nucleari sono diversi dagli altri. In Europa la strada per quanto riguarda il nucleare è quella degli stress test sulle centrali. La portavoce del commissario all'energia Marlene Hölzner al microfono di Sergio Nava. Questo non è una cosa che è basata su delle date empiriche, però è evidente, se si fanno delle test, noi non vogliamo soltanto accettare tutte le centrali nucleari e dire che sono tutti a posto. Questo deve essere un stress test con criteri veramente rigidi, deve essere fatto in modo molto molto serio, e mi pare evidente che non tutti i 143 centrali nucleari che ci sono nell'Unione Europea saranno giudicati sicuri. Quando cominceranno gli stress test? Non pensiamo di creare e stabilire anche i criteri nei prossimi mesi e fare questi test nella seconda metà di quest'anno. Ecco dunque, il Giappone vive tutto l'impatto, la durezza, la complessità di questa tragedia, senz'altro. L'Europa annuncia gli stress test, insomma l'Europa ha preso un po' l'abitudine, tutto è stress test, tutto è, come dire, un modo anche per calmare un po' gli animi e prendere tempo su delle riflessioni che naturalmente sono tecniche, richiedono tempo, competenze, sulle 143 centrali attive nell'Unione Europea. Sempre in chiave italiana, naturalmente la spaccatura netta tra, diciamo, destra e sinistra per comodità, tra nuclearisti e antinuclearisti, beh insomma alla fine della settimana in realtà si arriva a una posizione più meditata, più mediata. Il ministro Romani, lo sentiamo, chiede sostanzialmente un momento di riflessione collettiva. Ogni giorno ci danno informazioni che invece di rassicurarci ci destano maggiore preoccupazione. Non possiamo non tenerne conto. Quando si parla di pausa di riflessione, è una pausa di riflessione che ci consente di capire cosa stia accadendo. Sulla scia dell'allarme sicurezza lanciato dall'Europa, il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani sposa quindi la linea della cautela. Le dichiarazioni di Romani arrivano da Borgo Sabotino, località alle porte di Latina, dove il ministro ha partecipato all'inaugurazione di Sapei, il nuovo elettrodotto sottomarino di Terna che collega direttamente la Sardegna con la penisola. Nella stessa frazione di Latina si trova una centrale nucleare in smantellamento, chiusa dopo il referendum dell'87. Romani precisa che il termine riflessione non nasconde l'intenzione di interrompere sul nascere il nuovo programma nucleare. Anzi, sottolinea di rimanere un nuclearista convinto, ma è la prima volta che un esponente dell'esecutivo ammette esplicitamente che prima di andare avanti con l'opzione nucleare non si può non fare i conti con l'emergenza nipponica. Inoltre, la pausa di riflessione, ed è l'altra precisazione importante nel ragionamento di Romani, deve portare a scelte condivise da tutti, senza imporre la costruzione di centrali. Nicola Filippone, da Radio Corp, per Radio 24, il Sole 24 Ore, Latina. Ecco dunque il punto, se vogliamo, di fine settimana, almeno sul fronte italiano. Naturalmente invece la vicenda, quindi la crisi giapponese, va avanti. Speriamo che il ripristino dell'elettricità, quindi delle pompe idrauliche, del sistema, possa avviare una fase migliore, una fase in cui i reattori vengano poi messi infine sotto controllo. Ma naturalmente, se questo da un lato è l'auspicio di tutti, dall'altro rimane fermo tutta la riflessione che questi discorsi innescano. Tra poco ripartiremo da una considerazione invece più economica, una intervista che è stata mandata nel corso della settimana a Focus Economia, per parlare anche appunto dell'impatto, che è importante e sarà anche di lunga durata, di questi eventi sull'economia giapponese. E ancora da Bengasi una segnalazione: abbiamo sentito raccontare dall'inviato del Sole 24 Ore Roberto Bongiorni di un aereo che precipitava ai margini o alla periferia della città. Bene, secondo Reuters l'aeroplano, probabilmente un MiG-23, dunque dell'aviazione libica, Gheddafi per intenderci, quindi non ribelle, prende fuoco in volo, precipita a terra provocando una nuvola di fumo. Si vede chiaramente anche il pilota che si lancia all'esterno prima dell'impatto, a poche decine di metri da terra. Questo riferisce appunto Reuters, in una mattinata che vede l'attacco sulla città, di cui contorni e profili non sono chiari, ma che vede anche, parlavamo di altre situazioni calde, ecco, proprio un momento fa arriva la notizia da Aden, la polizia, dove appunto la polizia Aden, quindi Yemen, ha sparato su manifestanti delle opposizioni nel sud dello Yemen, ferendo almeno 4 persone, così raccontano i testimoni. Ecco, la situazione è complessa e in evoluzione, noi cerchiamo e ci impegniamo dunque ad aggiornarvi nel corso di tutta la giornata, ma vorrei adesso ritornare al tema che dovevamo affrontare. Oltre alla Libia, al Giappone, naturalmente questa è stata anche la settimana delle nostre celebrazioni. Garibaldi fu ferito di una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Camillo Bensoli Cavour, lo statista regista dell'Italia Unita che unificò il centro-nord grazie a Napoleone III e si prese il sud dalle mani dell'odiato Garibaldi, che fu protagonista di trame politiche da romanzo ma giocò la partita più delicata in Parlamento tra trattative e memorabili discorsi. Amava le donne e la tavola, e questo si sa, ma soprattutto capiva e come di politica ed economia, e sfruttò finanze, diplomazia ed esercito per dare corpo alle speranze della sua generazione. Realismo al servizio dell'idealismo di un uomo impetuoso. Mitico l'episodio del luglio 859 dell'armistizio che dava ai piemontesi la sola Lombardia. Cavour invitò il re a non firmare, piuttosto ad abdicare. Vittorio Emanuele rispose: ci devo pensare io che sono il re. E Cavour, gonfio di ira: il re ora sono io. Vittorio di rimando: lei il re, lei è uno sfacciato. Il giorno dopo Cavour si dimetteva offesissimo. Dopo soli 5 mesi Vittorio Emanuele, che stupido non era, ingoiò il rospo e lo richiamò al governo. Paolo Piacenza, Radio 24, il Sole 24 Ore. Vi ricordo, su radio24.it, il Gazzettino del Risorgimento, per imparare, reimparare la storia d'Italia, che non fa mai male. Ecco, su questa Italia del 1861, su questa Italia così lontana, così diversa, sentiamo invece un interessante intervento, un pezzo dell'intervento del professor Gianni Tognoli e di Enrico Giovannini, che a Focus Economia raccontano appunto quale fosse questo paese 150 anni fa. Sentiamo. Era una vita

contro copertina. Coccarde al posto del sole delle Alpi, il tricolore invece del verde del Carroccio. Per i 150 anni dell'unità, decine di bandiere italiane sventolano sulla scuola di Adro, laddove prima proliferavano i simboli celtici divenuti un caso politico. Ma la battaglia dei vessilli in questo borgo lombardo è ora una spaccatura che porta in strada due diversi cortei. Da una parte l'amministrazione rende omaggio ai eroi risorgimentali del posto, dall'altra sfilano i medaglieri dei partigiani. C'è una separazione netta tra una parte del paese e l'altra parte del paese. Adesso gli eroi del risorgimento li ha fatti diventare eroi padani. In questa settimana la scuola ha fatto tutta una serie di iniziative per festeggiare il compleanno d'Italia. E se nella contromanifestazione riecheggia provocatorio il Nabucco caro al Carroccio, il sindaco risponde con l'annuncio della vicina alba di un nuovo sole delle Alpi, oltre ai tanti rimasti su panchine e cestini e oltre ai futuri già deliberati per una rotonda e per il gonfalone. Ride bene chi ride ultimo, ammonisce il primo cittadino Oscar Lancini. Non c'è il popolo italiano, altrimenti io non sarei diverso da quelli che a Napoli fanno i cumuli di rifiuti. Non la voglio di questa Italia, non mi rappresenta. E per marcarlo, nel giorno della festa si tiene comunque un consiglio comunale. Come un giorno normale allarga le braccia il sindaco uscendo dal municipio, ma tutto intorno sventola il tricolore. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Adro. Punto e a capo. Temi economici ancora, vi avevo anticipato dunque l'effetto di lungo termine immediato, violentissimo sui mercati giapponesi, Tokyo che perde il 10% secco all'indomani della crisi. Ecco, per quanto riguarda lo sviluppo, per quanto riguardano appunto gli sviluppi di questa situazione, vi voglio far sentire un'intervista che Sebastiano Barisoni ha fatto durante Focus Economia a Peter Westaway di Nomura e che ci racconta appunto da una grande finanziaria con testa tra Tokyo e Londra la prospettiva di questa crisi. Un modo per capire cosa potrebbe accadere sui mercati è andare indietro al terremoto di Kobe nel 1995. E la cosa interessante è che allora, quando la borsa ha riaperto, il Nikkei è calato più o meno come oggi, intorno al 6%. Ma dopo un paio di settimane c'era stato un rimbalzo, anche se era ancora sotto del 3% rispetto al periodo prima del terremoto. Ma credo di non sbagliare dicendo che questa volta l'impatto potrebbe essere maggiore, semplicemente perché la portata sia della perdita di vite umane, che dal punto di vista economico sembra crescere con l'andare del tempo. E certamente una grande incertezza circonda la situazione dei reattori nucleari. Per ciò che riguarda l'impatto sull'economia, pensiamo che le conseguenze maggiori sul PIL saranno nel secondo trimestre dell'anno. Crediamo che intorno all'estate o l'autunno l'effetto complessivo peserà intorno all'1% del PIL. Da lì in poi, invece, il tasso di crescita andrà nella direzione contraria, perché si farà sentire la spinta degli investimenti per la ricostruzione ed entreranno in gioco le misure di stimolo da parte del governo. Quindi verso la fine dell'anno la crescita sarà positiva e il prossimo anno vedremo un totale recupero delle perdite. Ma ci vorrà molto tempo perché il colpo è stato molto duro anche per il potenziale produttivo del Giappone. Le notizie che arrivano da Bengasi, dalla Libia, mettono pressione anche sul fronte internazionale. Ecco, la comunità internazionale deve agire rapidamente, afferma il governo francese. Tutto è pronto, ha comunicato poco fa una fonte del governo alla Reuters. Dice: è chiaro che ora la decisione è politica. Lo ricordo, alle 13.30 a Parigi è in programma un summit sulla Libia tra Unione Europea, Unione Africana, Lega Araba Araba Stati Uniti. Ecco, un vertice che dovrebbe durare non più di un paio d'ore. A quel punto, secondo quanto è già stato detto ieri alla BBC dall'ambasciatore francese all'ONU Gérard Araud, potrebbe scattare l'intervento militare contro le forze di Gheddafi. Ma noi concludiamo invece in questa agenda settimanale un altro importante tema economico che oggi è poi l'oggetto della prima pagina del titolo d'apertura del Sole 24 Ore, quando leggiamo protezione antiscalata per le imprese italiane. Beh, un ragionamento affrontato più volte, ancora una volta innescato oggi per il caso Parmalat. L'ambasciatore francese a Roma ha salito le scale di Palazzo Chigi, dove ad attenderlo c'erano il ministro dell'economia Giulio Tremonti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Il messaggio è stato chiaro: il governo è pronto a tutelare le imprese italiane da scalate di matrice francese anche con provvedimenti legislativi. Dopo BNL, Cariparma, Gucci e solo nelle scorse settimane Bulgari, l'esecutivo non tollererà che anche Parmalat finisca in mano ai transalpini di Lactalis. La società della famiglia Besnier negli ultimi giorni è diventata primo azionista del gruppo italiano e ha presentato una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Parmalat, quindi i nomi che decideranno la gestione della società nei prossimi anni. A contendere il primato a Lactalis ci sono alcuni fondi di investimento esteri che hanno anch'essi presentato propri candidati, e poi c'è la lista di Intesa San Paolo. L'istituto ha poco più del 2% di Parmalat, ma è al lavoro per mettere in piedi una cordata italiana. La Lega delle Cooperative, che già controlla Granarolo, è interessata, e anche il gruppo Dolciario Ferrero sta valutando l'iniziativa. Alcuni altri nomi arriveranno, spinti anche dal pressing del governo. Anche il presidente di Confindustria Marcegaglia ha sottolineato che le imprese italiane non possono essere sempre prede. I 2000 dipendenti italiani del gruppo Parmalat e tutta la filiera di allevatori della Bassa che conferisce il latte all'azienda di Collecchio attendono sviluppi. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Stamattina Federico Taddia è venuto a trovarmi in studio. Tra l'altro, Federico, ti occuperai, abbiamo appena parlato di Giappone, di crisi nucleare, anche tu affronterai la questione. Sì, andremo a capire se le centrali sicure, le centrali nucleari in Europa sono sicure o meno, i test che verranno presentati anche nei prossimi giorni. Con noi ci sarà Jacopo Giliberto, che è un esperto del Sole 24 Ore, che sta affrontando quotidianamente questa sorta di crisi. Ecco, poi c'è anche il momento e l'occasione per dire che stai per iniziare una nuova avventura, forse un po' di pubblicità, su. A Radio 24 viaggio per l'Europa, mentre parto con un altro viaggio, un viaggio spaziale, argomento che tu conosci molto bene, perché da lunedì insieme a Margherita che faremo questo viaggio nello spazio. Andremo a spiegare le stelle ai bambini su un canale satellitare che è Dead Kids, una bella esperienza, perché la più grande astrofisica italiana che si mette al servizio dei più piccoli è una bella occasione. È professionale, personale ed è veramente un viaggio fantastico, una scienza difficile però resa semplice per i bambini. Non ne dubito, sarà interessante, anche divertente, come sempre e naturalmente nel miglior senso del termine, i programmi condotti da Federico Taddia. Allora noi proseguiamo e continuiamo, diciamo, sul fronte mette un attimo da parte quella che è l'hard news, l'attualità, ma appunto solo per un momento, ma accade anche dell'altro. E allora, pagina degli spettacoli, come di consueto in questa fase. È stata una settimana importante per il cinema, con un fine settimana lunghissimo, nuove uscite importanti. Di mercoledì il nuovo caso italiano è Nessuno mi può giudicare, commedia con Raul Bova, Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, un'opera prima che nei dati parziali del weekend sembra stracciare la concorrenza del discusso prequel di Amici miei, firmato da Neri Parenti. Allora, Marta Cagnola, come al solito attiva nel mondo del cinema e della cultura, ha intervistato il regista di Nessuno mi può giudicare, Massimiliano Bruno. L'Italia è un paese, non lo dico io, ma è un dato di fatto, in grossa crisi economica, ma è anche in grossa crisi di valori. E abbiamo una classe dirigente di cui non essere fieri, e che dovrebbe essere un po' i nostri zii, i nostri papà, i punti di riferimento, e invece ci troviamo a vergognarci di chi ci rappresenta nei confronti degli altri paesi, che siamo diventati un po' una barzelletta. E invece un giorno mi sono scoperta ad essere fiero delle persone che conoscevo, come il mio giornalaio, oppure la commessa del supermercato, gente onesta che tira a campare, però alla fine si comporta bene, ha dei principi e dei valori sani. Partendo da questo ho pensato come si poteva rappresentare l'Italia, e l'Italia forse si può rappresentare come una prostituta in questo momento, cioè una che si svende, che per sopravvivere ha bisogno di venire incontro a un compromesso. E quindi in questo senso è metafora del nostro paese. L'Italia in questo momento è un paese che si è indebitato parecchio, e addirittura siamo arrivati a vendere i palazzi storici nella capitale, in Roma, ma in tante altre città, agli americani o ai giapponesi. Cioè è un paese che sta in difficoltà. Alice, che è Paola Cortellesi nel mio film, è una donna in difficoltà che fa quello che non vorrebbe fare, cioè svendersi per salvare la vita di suo figlio. Escort, non si può non parlarne, un tema che poi è diventato d'attualità. Tu sei stato un po' preveggente, lo eri già stato in Boris, quando Martellone aveva già avuto un affair con dei trans, ben prima di quello che è successo nella politica. Anche qua ci hai visto lontano, come hai fatto? Beh, secondo me le cose sono nell'aria, poi in realtà la verità è che mi sono informato. Poi io e te abbiamo la fortuna di fare un lavoro che si regge sull'informazione, devi sapere per poter comunicare con chi ti ascolta, no? Io quando ho cominciato ad avere questa idea ho intervistato delle escort che mi hanno raccontato le orgette che facevano, come venivano contattate, quella scena che è nel film dello yacht dove una mandria di escort sale su uno yacht pieno di politici e imprenditori arrapati. Io questa roba l'ho sentita un anno e mezzo fa intervistando una escort, prima che uscisse sui giornali. Poi quando poi è uscita sui giornali ho avuto la certezza che era vera, perché in realtà mi sembrava talmente assurdo che ho pensato pure questa mi ha detto una bugia. Punto e a capo. Il cinema dunque e l'attualità che si incrociano, si intersecano in questa nostra fine d'inverno. Siamo alla conclusione, solo per ricordare, questa mattina in diretta qui in regia Peter Bescapè, noi siamo ormai pronti tra qualche istante per sentire insieme gli ultimi aggiornamenti in arrivo dalla Libia, ma non solamente. A questo proposito vi ricordo che per tutta la mattinata continueremo ad aprire delle finestre, degli spazi di approfondimento qualora appunto fosse necessario andare anche oltre lo spazio dei GR. Vi ricordo anche che alle 13.30 è prevista una riunione importante a Parigi che potrebbe appunto aprire poi la fase dell'intervento, come è stato annunciato già ieri dall'ambasciatore francese all'ONU, appunto Gérard Auroux, che ha detto intorno alle 15.30 di domani, quindi oggi, ci potrà essere il via libera all'intervento. Staremo a vedere, per adesso siamo alla fine. Da parte mia non mi resta che salutarvi e lasciarvi naturalmente all'ascolto dei programmi di Radio 24.